Un dialogo immaginario, bambina Einstein. Mi è caduta la tazzina. Poco male, ce ne abbiamo tante altre. Mi è scappata di mano. Ma perché le cose cadono se nessuno le tiene? Perché sono pesanti. Ma perché le cose pesanti cadono per terra? Ma Perché la terra le attrae. che vuol dire le attrae? Come fa ad attrarle se non c'è niente che le tira giù, nemmeno un elastico? Le trae con una forza che si chiama forza di gravità o anche gravitazione. Ma se voglio tirar giù una cosa, devo toccarla, o almeno toccare un'altra cosa legata a quella. E qui, tra la tazzina e la terra, non c'era nulla. E allora? Si parla di azione a distanza. La forza di gravità agisce da lontano, senza contatto diretto tra i corpi che si attraggono. Ma come fa ad agire da lontano? Beh, anche il sole ti illumina da lontano. Già, ma lui mi manda la luce che mi tocca e la vedo e sento pure che è calda. Forse anche la gravitazione ti tocca con qualcosa che c'è ma non si vede. Si parla per esempio di gravitoni, che potrebbero essere simili alle particelle di luce che chiamiamo fotoni. Sì, ma quelle si vedono mentre i gravitoni siete voi scienziati a immaginarli. Come immaginiamo anche gli atomi, gli elettroni e molte altre particelle che una per una non si vedono, ma che tutti insieme formano i corpi. E perché immaginate tutte quelle particelle e non, per esempio, qualche altra cosa? Che cosa per esempio? E che ne so, che non ci sono particelle, o anche che non ci sono distanze, che non c'è lo spazio, perché anche quello non si vede. Si vedono solo le cose che ci stanno dentro. Oppure che le cose non sono altro che spazio modificato. Mi hai dato una buona idea, ci penserò su.